l'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'altra Europa. Oggi puntata speciale dal Salone dell'Auto. Siamo qui nel nostro studio mobile per raccontare, come facciamo ogni settimana, l'Europa delle storie, l'Europa delle possibilità, l'Europa delle opportunità. Tante voci, tanti ospiti, faremo un po' di analisi su che cos'è l'Europa oggi e come sempre vi daremo tantissime possibilità anche in vista dell'estate. Però è una puntata speciale, è una puntata live e come sempre abbiamo tanta musica qua con noi. Banda Cadabra oggi nel nostro studio live qui a Radio 24 con l'altra Europa, una street band che poi conosceremo, a vocazione, a visione europea, perché suonano anche in tanti paesi europei. Do subito il benvenuto ai nostri ospiti, Cesare Martinetti, direttore del settimanale Origami. Ciao Cesare, benvenuto all'altra Europa e conoscitore dell'Europa, perché nel tuo passato ci sono anche tante corrispondenze non solo europee, vero? Europee? Non sei stato anche fuori dall'Europa, no? Se consideri la Russia fuori dall'Europa, è sono vero. Stato fuori dall'Europa. Qui si apre un dibattito. Si apre un dibattito. E poi do la benvenuta, la ben ritrovata, qui l'altra Europa, ad Alba Garavet, che è responsabile dello Europe Direct di Torino. Ciao Alba. Ciao Federico, ciao a tutti. E qua sono già due visioni di questa Europa, l'Europa delle possibilità e delle opportunità, come ho detto, che è quella di Alba, e l'Europa dell'attualità politica ed economica, che è quella che ci racconterà un po' oggi Cesare. Cesare, come sta l'Europa? L'Europa è una giovane sessantenne, ha compiuto da poco 60 anni, che nell'età di un uomo e di una persona sono una certa età, ma nel caso di una costruzione come quella dell'Europa, che riassume, vuole sintetizzare, vuole costruire un qualcosa che tiene insieme secoli di storie, di differenze, di molteplicità, di eventi, di guerre, di passioni, di amicizie, di inimicizie, di differenze economiche, eccetera, è un'età tutto sommato giovane. Però è un'età di passaggio e il punto in cui si trova l'Europa adesso è proprio questo. Si è esaurita la grande spinta ideale e una formidabile spinta che ha portato alla costruzione dell'Unione Europea dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ricordiamo che uno dei punti di partenza era mai più guerre in Europa. Uh-huh. Da oltre 1000 anni ci si sparava regolarmente ogni 20-30 anni tra una parte e l'altra del Reno, di qua e di là, lo sappiamo tutti, lo ricordiamo. Il punto di partenza era quello. Questo è stato, diciamo, un obiettivo realizzato, ma ci sono molti problemi, perché in questo momento, in modo particolare, come sappiamo, di problemi ce ne sono tanti, perché la gente non si riconosce più in quel processo che, in modo vero, anche un po' retorico se volete, ma comunque positivo, è stato vissuto per tanti anni. Un'Europa che forse sta cambiando volto, sicuramente sta cambiando voto, e ne parleremo poi fra pochissimo, visto che è comunque un anno o un periodo di importanti elezioni. Alba, invece, l'Europa delle possibilità e delle opportunità. Intanto ricordiamo che cos'è lo Europe Direct. Sì, lo Europe Direct è un centro di informazione europea. In realtà gli Europe Direct sono centri di informazione europea promossi dalla Commissione europea, presenti su tutto il territorio dei 28, poi saranno 27 paesi membri. Questo vuol dire che in Italia ce ne sono una cinquantina, negli altri paesi più o meno sono distribuiti nello stesso modo e sono sportelli per avvicinare l'Europa al cittadino. Sono centri dove i cittadini si possono rivolgere per avere informazioni sulle opportunità di mobilità, le opportunità di finanziamento, sui diritti di cittadinanza e anche per approfondire le politiche. Gli Europe Direct in verità fanno non solo lo sportello di risposta al cittadino, ma anche un'attività di attenzione, promozione, approfondimento sui temi di attualità, sulle politiche, cercano in qualche modo di portare l'Unione Europea più vicino ai cittadini in termini anche critici, perché in questo momento è vero, l'Europa anche sta cambiando, in un momento molto particolare, difficile, i cittadini devono esserne un po' più consapevoli, informati, per poter anche essere un po' gli attori di questo cambiamento. È un po' più parte attiva anche. Cesare? Sì, io credo che questa parte che ci sta raccontando Alba sia molto importante, perché spesso la colpa, lo riconosco, è dei giornali o dei media, eccetera, si parla soltanto di Europa in grandi termini politici, eccetera. In realtà l'Europa è una grandissima realtà che operante, che ha, possiamo dirlo senza paura di esagerare, che ha veramente trasformato la vita dei paesi europei. E dei cittadini. Dei cittadini, certo, la vita concreta dei cittadini. Noi siamo già europei. Quando si fanno queste, si sentono dei dibattiti, basta l'Europa, sono dei dibattiti veramente senza senso, perché la realtà europea è una realtà operante, viva. Si prende spesso l'esempio dell'Erasmus, di che cosa ha rappresentato l'Erasmus per una generazione ormai, per più generazioni, perché ormai è più di 30 anni che si fa l'Erasmus, quindi quanto ha significato nella vita di migliaia e migliaia di ragazzi il conoscere l'Europa e il costruire dentro di sé una coscienza europea. Ciò non significa che non si debbano superare i problemi, però sottolineare quelli che sono gli aspetti concreti, far conoscere e riconoscere dentro la propria vita gli elementi concreti di progresso, di vita reale che rappresenta l'Europa per noi è molto importante. Con Alba oggi andremo a cercare anche un po' di possibilità e opportunità estive, o comunque nei prossimi mesi. Sì, abbiamo una trentina di secondi proprio per iniziare questa carrellata. Da cosa partiamo? Ma vorreste fare un'esperienza all'estero a costo zero? Perché no? Lo SVE. Il programma Erasmus Plus non promuove solo il famosissimo Erasmus per gli studenti, ma ha anche una serie di programmi che finanziano esperienze dirette all'estero in una dimensione forte di crescita protetta. Lo SVE è il servizio volontario europeo, un'offerta del programma che prevede la possibilità di fare un periodo dai 2 ai 12 mesi all'interno di un progetto in un altro paese europeo, un progetto strutturato e pensato proprio per ospitare i volontari, ma può essere sul tema dell'assistenza, dell'ambiente, della difesa dei diritti, della protezione delle specie in via di estinzione, e i giovani possono individuare il progetto che fa per loro, sceglierlo e poi partire. Come sempre, le Europe Direct sono punto di riferimento per tutte le informazioni. Noi ci fermiamo nel momento del traffico, poi ancora qua con l'Altra Europa dal Salone dell'Auto di Torino. L'Altra Europa. Puntata live oggi dell'Altra Europa dal Salone dell'Auto di Torino. Loro sono i Banda Cadabra, colonna sonora di questa puntata speciale. Con noi Gipo, eccolo qua. Ciao, ciao Gipo. Fa caldissimo fuori. Abbiamo proprio messo in effetti. Ma mi fate una trifacciale. Siete abituati però, no, a suonare in strada? Sì, siamo abituati a suonare in qualsiasi condizione di spazio di tempo, fra cui pioggia, vento, caldo. Chi siete? Chi sono i Banda Cadabra? Ma è una formazione di tendenzialmente di fiati e percussioni, quindi ha una forma di una marching band fondamentalmente, anche se ultimamente facciamo anche tanto palco, ed è un gruppo che unisce la musica, diciamo un aspetto coreografico e un'attitudine abbastanza comica. Vi aiuta? Il fatto di essere, insomma, di avere una parte di intrattenimento comico tecnicamente ci aiuta a superare la quarta parete, a creare uno scambio autentico con il pubblico. Mm-hmm. Avete un tour intensissimo, bandacadabra.org per conoscere tutte le date. E c'è tantissima Europa. Sì, noi abbiamo la fortuna di essere un gruppo che ha sempre lavorato tantissimo all'estero. Noi abbiamo avuto ottimi rapporti con gli istituti italiani di cultura in particolare, e abbiamo quasi metà del nostro lavoro è sempre stato in altre città europee, anche capitali europee, e anche perché qua l'aver imparato un po' le lingue ci serve, perché l'intrattenimento comico è fatto in un inglese maccheronico, in un francese maccheronico, però abbastanza, insomma, comprensibile anche ai francesi e appunto agli inglesi, e questo ci ha aiutato a lavorare tantissimo fuori, cosa che facciamo davvero con piacere. Domani partiamo per il Belgio, e lunedì saremo in Belgio, poi risaremo in Belgio la settimana prossima. Insomma, il maccheronico è il nuovo esperanto, questo... Il maccheronico è l'esperanto, in effetti. Io quando parlo inglese sembro un po' Borat. Okay. Questo fa simpatia, perché c'è questo... Poi la cosa divertente è che, insomma, in Europa non capiscono il nostro linguaggio del corpo. Cioè, effettivamente c'è un po' la rappresentazione di gente che si muove molto, e in realtà ho cercato più volte di fargli capire che alcune espressioni che loro utilizzano corporee, che sono utilizzate in maniera sbagliata. Per loro questo non si vede in radio, questo gesto qui, che in radio tuttavia non si vede, è un gesto che vuol dire sempre mamma mia. E io ho cercato di fargli capire che comunque è scorretto. Quindi stiamo cercando di catechizzare l'Europa su un appropriato uso del proprio corpo nella comunicazione. Non avevo sottovalutato l'aspetto culturale della Banda Cadabra. Esatto. Ti lascio ai tuoi compagni di musica, ancora pezzi poi nel corso di questa puntata. Qua state più freschi che fuori, in qualche maniera. Siamo dei privilegiati. Esatto. Torno fuori perché sul piatto della casa, secondo me, ci posso cuocere anche le uova. Grazie. Grazie a tutti, buona giornata. Grazie Gipo. Non so se questo aspetto del fresco all'interno dello studio sia condiviso anche da Riccardo Groppo, il nostro ospite che ci ha raggiunto, ingegnere di Ideas & Motion SRL, che è azienda partner di un progetto che vede proprio Torino protagonista, un progetto finanziato dall'Unione Europea all'interno della programmazione di Horizon 2020, progetto che si chiama Steve e vede la mobilità elettrica al centro. Buongiorno Riccardo, benvenuto all'Altra Europa. Sì, grazie per l'invito. Sì, un progetto che è stato recentemente approvato dalla Commissione Europea, che vede la partecipazione di 21 società in Europa, con un forte baricentro qui in Piemonte, che è mirato allo sviluppo di quadricicli leggeri a trazione elettrica, e prevede la dimostrazione in ambito urbano, non solo a Torino, a Villach in Austria, a Calvià in Spagna, e c'è anche il comune di Venaria. Prevede una dimostrazione di 18 mesi in cui questi veicoli potranno essere utilizzati tramite la modalità del car sharing dagli abitanti della città, e ci sarà anche una partecipazione importante da parte del Politecnico e degli studenti per l'uso di questi veicoli. Mm-hmm. Quali sono i punti critici ancora per quanto riguarda la mobilità elettrica, definiamola così? Beh, allora, sicuramente l'autonomia del veicolo, l'integrazione nel caso di questi veicoli, che sono particolarmente compatti, con le infrastrutture della città, con i servizi infotelematici, perché nel momento in cui si parla di car sharing è importante poter sapere quando posso prendere il veicolo, dove. Noi proporremo un concetto di cosiddetto gamification, per cui l'impiego del veicolo sarà particolarmente divertente, interattivo. Sono, diciamo, tecniche già utilizzate in altre città europee, ad esempio a Berlino c'è stato un esperimento di questo tipo, che permette sostanzialmente un uso migliore del veicolo. Certo, l'altro discorso importante è il costo, e quindi all'interno del progetto valuteremo anche queste cose. Il progetto prevede lo sviluppo di una fabbrica pilota dove questi veicoli verranno poi sviluppati per diciamo, l'utilizzo su vasta scala. Torino è una buona città per fare test di questo tipo? Beh, penso che Torino comunque è una delle città dell'automobile a livello mondiale, è un brand che è riconosciuto da tutti e al di là di Fiat anche altri carmaker sono arrivati, sicuramente c'è una cultura dell'automobile che è abbastanza unica. Grazie davvero a Riccardo Groppo, ideasandmotion.com è il sito per tutte le informazioni anche sul progetto Steve, ricordiamo che vede coinvolto principalmente il Politecnico di Torino come... Beh, allora il progetto è coordinato da Infineon Semiconduttori in Germania, tra l'altro da persone italiane, nostri ex colleghi di Fiat, ecco. Proprio a dimostrazione che siamo veramente europei, ed è una partecipazione molto vasta, diciamo, dei migliori player europei a livello tecnologico sull'automobile e soprattutto sull'elettronica. Grazie davvero, buon lavoro Groppo. Grazie. Noi torniamo invece a parlare dell'Europa, delle possibilità e delle opportunità, lo facciamo con Alba Garavet. Alba, è un lunghissimo elenco, lo so, oggi ti ho un po' messo allo sportello del tuo Europe Direct, ma vero? Ma io ne sono contenta perché è quello che faccio tutti i giorni, è la mia ragion d'essere, anche è perché anche il senso di quello che... Se io sono totalmente inesperto di Europa, posso comunque bussare allo Europe Direct e chiedere informazioni di qualsiasi tipo, no? Devo, questo aiuta. Nel senso che noi al nostro sportello diamo informazioni su opportunità e diritti. Lo spazio dei diritti è davvero uno spazio grandissimo rispetto al nostro essere cittadini europei. L'Unione Europea fa molto per noi in termini di politiche di protezione dei consumatori, come quando mangiamo, quando viaggiamo, e fa molto anche per i giovani, promuovendo la mobilità dei giovani. Prima abbiamo parlato di SVE, di Servizio Volontario Europeo, con due battute. Adesso volevo in realtà approfondire un po' di più il senso, sì, dello SVE, la possibilità di fare un'esperienza in un altro paese, ma protetta, nel senso che è un'esperienza che ti fa crescere, che ti mette alla prova in una dimensione di un progetto, con un tutor sia nella struttura di invio che ti fa partire, che ti aiuta, che ti prepara, sia in quella che ti ospita per tutto il tempo. E la Commissione Europea, attraverso il progetto, finanzia sia il viaggio che il vitto che l'alloggio, e aggiunge un piccolo pocket money per le spese minute, certo, insomma, andare a mangiare la pizza proprio per dare la possibilità a tutti, no? Che per dare la possibilità a tutti, inclusivo del... Perché fare un'esperienza all'estero non è solo per chi ha i soldi o la famiglia che lo può permettere, ma è davvero un'esperienza possibile per tutti. Ci sono SVE corti o lunghi, anche per chi non se la sente, due settimane è il periodo più corto. In questo momento vedo uno short SVE in Croazia dal 14 al 27 agosto, ad esempio, in attività a contatto con la natura, oppure un po' più lungo, 7 mesi in Bulgaria dal 1 agosto al 31 marzo del 2018, quindi, certo, sì, quindi insomma un periodo più lungo. Sì, si rivolge a giovani 18-30 anni. Ok, quindi insomma un target anche largo e veramente tantissime possibilità, anche insomma con il nostro programma lo abbiamo promosso tantissimo perché crediamo sia un bel pezzo di Europa. Cesare, dall'Europa ti porterei al Regno Unito, sembra un po' paradossale, ma ci tocca un po', l'attualità ce lo impone, il voto inglese avrà ripercussioni europee o per quello che riguardava il Regno Unito rispetto all'Europa è un capitolo chiuso? No, io credo che sia un capitolo chiuso, nel senso che un referendum come quello che c'è stato con Brexit non è che si cancella, non è che 2 anni dopo se ne fa un altro, questo lo escluderei. Però io mi ricollego a quel che diceva Alba, perché ha insistito sul concetto della protezione. Ecco, io credo che la grande rottura che c'è stata, culturale, di sentimento, che è in corso nelle opinioni pubbliche europee, che ha creato e crea questi terremoti politici, sia stata proprio la sensazione di una mancanza di protezione. Ecco, la domanda forte che c'è nei cittadini, nell'opinione pubblica in questo momento, io credo che sia proprio quella di protezione rispetto a tante cose, rispetto all'economia naturalmente, che è la cosa fondamentale, perché il lavoro è la possibilità di vita quotidiana, rispetto naturalmente al terrorismo anche. È evidente, in Francia il terrorismo ha marcato la società in modo molto più forte di quanto poi alla fine non si veda, perché è chiaro che la vita riprende, non è che ci si può fermare, però gli animi sono stati fortemente segnati. Ecco, rispetto a tutto questo, io quello che credo che esprimano i voti, il voto inglese, anche il voto di ieri, di giovedì, in Inghilterra, il Partito Conservatore ha pensato di capitalizzare Brexit, il risultato Brexit, in un modo abbastanza, devo dire, veramente sciagurato, perché con una leader che peraltro era contro la Brexit, quindi insomma conteneva in sé tutta una serie di contraddizioni, e questo voto inglese, che sono naturalmente esplose, e sono esplose con il successo del Labour, che invece a sua volta esprimeva invece proprio quello, una riconoscibilità di una protezione. Poi adesso non stiamo a discutere se è vecchia sinistra, nuova, insomma non è questo il punto. Il punto è che il sentimento espresso dall'opinione pubblica è questo, e anche in Francia, tutto sommato, nel voto che c'è stato presidenziale un mese fa, questa espressione era molto forte. In Francia e in Germania ci andiamo subito dopo la pubblicità. Ci fermiamo dal Salone dell'Auto con l'Altra Europa, ma siamo qui tra pochissimo. L'Altra Europa. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è sempre l'Altra Europa, loro sono sempre Banda Cadabra, oggi colonna sonora di questa puntata speciale dal Salone dell'Auto di Torino, perché l'Europa è anche musica, anche contaminazione culturale, come ci hanno raccontato prima nel loro viaggiare per l'Europa. Ospiti, la nostra giostra di ospiti che continua, fra pochissimo darò il benvenuto a una nuova arrivata. Intanto stiamo parlando invece con Cesare Martinetti, direttore del settimanale Origami, di questa Europa alla luce delle recenti elezioni, quelle nel Regno Unito, ma prima la Francia, poi ci sarà la Germania. È un'Europa in evoluzione, Cesare? Dicevamo anno di passaggio, momento di passaggio, e io aggiungo anno di passaggio. Il 2017 è decisivo per la politica europea. Ci sono state prima piccole ma significative anche loro le elezioni in Olanda, che era un punto dove i partiti anti-europei erano molto forti e sono stati sconfitti, però veramente l'appuntamento centrale dell'anno sono le elezioni francesi. C'è stato un mese fa l'elezione presidenziale, domani primo turno, domenica prossima secondo turno delle elezioni legislative. Ha vinto un giovane presidente, un giovane politico, Emmanuel Macron, e che ha un progetto molto ambizioso, riformare la Francia e riformare anche l'Europa, e le due cose vanno insieme. Primo appuntamento di Macron, che possiamo definire un liberal democratico, che rompe un po' rispetto alla politica tradizionale, bipolare, francese, destra-sinistra, ma che soprattutto ha battuto Marine Le Pen. Il punto centrale di Macron, dicevo, per l'appunto, è riforma dell'Europa. La cosa più rilevante che è già successa è che, come tradizionalmente avviene, subito dopo essere stato eletto ha incontrato Angela Merkel, che a settembre sarà, avrà le elezioni politiche anche lei, ha incontrato anche la Merkel e ha subito rotto nelle intenzioni di questo primo incontro, poi vedremo, un tabù tedesco che è stato quello che i trattati non si possono toccare. Merkel ha accettato l'idea che i trattati si possono riformare, questo significa che c'è stata l'espressione subito di una volontà e di una possibilità di rompere con tutte quelle rigidità che ci hanno portato a questa Europa che, come dicevamo prima, non dà più ai cittadini un'immagine di protezione, un'immagine positiva, eccetera. È un movimento in cammino, dove ci porterà non lo sappiamo, però la cosa importante è che un primo passo, qualcosa sta succedendo. Credo che la consapevolezza in politici forti e tradizionali come Merkel e nuovi ma strutturalmente molto tradizionali come Macron sia molto forte. Ecco, sanno che questa è l'occasione di riformare o non dico mai più, ma insomma, forse no. E forse al di là della retorica, Macron rappresenta anche un po' la generazione Erasmus che si prende in mano un po' le redini di questa Europa, o perlomeno tenta di farlo. Esattamente, è una generazione, sì, esattamente, è un giovane tecnocrate, naturalmente ha degli avversari formidabili perché c'è una sinistra e una destra, al primo turno 40% di voto tra Le Pen e Mélenchon, quindi tra estrema destra e estrema sinistra, che è quel mondo che per certi versi in modo anche comprensibile rifiuta l'idea, rifiuta globalizzazione, rifiuta l'Europa nel modo in cui si è espressa e di cui abbiamo parlato, che magari che non riconosce invece l'Europa di cui parla Alba. E, insomma, la scommessa è proprio questa: riformare l'Europa in modo tale che si capovolga nell'opinione pubblica, intanto che inneschi delle politiche positive e poi che si capovolga questa immagine di Europa matrigna, ecco. Periodo, anno, mese decisivo per l'Europa, ma non solo. Aprirei un po' lo sguardo e parlerei di clima, un po' perché anche in questi giorni insomma c'è il G7 dell'ambiente a Bologna. E tutto ciò lo facciamo con Elisa Palazzi, che è ricercatrice dell'Istituto di Scienza dell'Atmosfera e del Clima del CNR e docente di fisica del clima qui all'Università di Torino. Ciao Elisa, ben ritrovata all'Altra Europa. Ciao, grazie. Cosa significa ragionare sul clima, sul cambiamento climatico in chiave europea? Beh, direi anzitutto che l'Europa per me, penso per la ricerca in generale e forse per la ricerca sul clima in particolare, rappresenta proprio lo scenario e il palcoscenico ideale per la ricerca, non solo perché dall'Europa vengono i programmi di finanziamento che veramente sostengono la ricerca, in particolare in Italia dove i fondi nazionali un po' scarseggiano, ma anche perché permette veramente di creare dei network e delle reti di collaborazione tra gruppi di ricerca anche molto interdisciplinari. La ricerca sul clima, per la definizione di clima stesso, non è settoriale, è qualcosa che va oltre i confini, che abbraccia un sacco di discipline diverse e quindi è naturale anche collaborare con persone, con gruppi di ricerca che affrontano diversi aspetti, tutti collegati tra loro, di questa scienza. Tu in particolare, in questo momento, a cosa stai lavorando? Io mi occupo da circa 6 anni di cambiamenti climatici nelle regioni di alta quota, quindi nelle regioni di montagna, con l'obiettivo di andare a capire gli impatti dell'aumento di temperatura in queste regioni. La cosa importante da capire in questo senso è che gli impatti non hanno un effetto solo locale, cioè sulle montagne, in montagna, ma a valle. Ci sono tantissimi servizi che gli ecosistemi montani, se sono protetti, se sono integri, forniscono, e se invece sono messi sotto stress antropici, quindi soprattutto i cambiamenti climatici di origine antropica, rischiano di essere fortemente compromessi. Queste attività sono fatte nell'ambito in particolare adesso di un progetto europeo, mm-hmm. anche questo finanziato nell'ambito del programma Horizon 2020 che abbiamo sentito nominare prima. È un progetto che si chiama EcoPotential e vede la partecipazione di tantissimi partner, una cinquantina circa, inclusi enti sovranazionali come UNEP ad esempio, il cui obiettivo è quello di andare proprio a studiare, a monitorare lo stato attuale e futuro di tutta una serie di aree protette e di ecosistemi in Europa e anche fuori dall'Europa, anche con l'obiettivo di aiutare nella gestione futura più efficace di queste aree. Io mi occupo soprattutto di quelle montane, quindi con un particolare occhio alle Alpi naturalmente, però ci sono anche ecosistemi marini e costieri, aridi e semiaridi. Ognuno di questi è fondamentale e fornisce importanti servizi che cerchiamo di salvaguardare. Ma per chi come te, i tuoi, sto pensando anche ai tuoi colleghi dei progetti europei e non solo, la scelta di Trump vi ha depresso? Affatto. La scelta di Trump secondo me ha fatto venire fuori uno spirito combattivo. Io ho molti colleghi che lavorano anche negli Stati Uniti e quello che ho proprio osservato è la voglia di fare tanto di più, di far sentire la propria voce e di andare avanti. Peraltro credo che questa scelta, oltre a essere antistorica, antieconomica, antisociale in generale, rappresenta un isolamento all'interno degli Stati Uniti stessi da parte di Trump, che, in cui molte realtà hanno già intrapreso un percorso di decarbonizzazione che non credo abbiano intenzione di smettere, insomma, adesso. Quindi... Un'ultima domanda, Elisa, dobbiamo essere ottimisti o pessimisti per il futuro del clima in Europa? Ma ottimisti sicuramente, sempre. Però c'è da fare, c'è da lavorare, c'è tanta ricerca anche fondamentale, perché questi progetti finanziati nell'ambito di Horizon hanno sempre una finalità molto pratica, quindi molto di servizio. Ricordiamoci però che dietro ci sta anche tanta scienza di base e ricerca in senso stretto che non va sicuramente... dimenticata. Grazie Elisa Palazzi, ricordiamo isac.cnr.it, che è il sito dell'Istituto di Scienza dell'Atmosfera e del Clima del CNR. Buon lavoro e grazie. Grazie a voi. E torniamo ad Alba, Alba Garavette, Europe Direct di Torino. Quando ti ho chiamato, Alba, qualche giorno fa per invitarti, eri a Bruxelles. Sì. E mi hai detto, sono qui a Bruxelles e mai accennato in... poche parole, un progetto a cui stavi partecipando che sì, mi è subito ero piaciuto. A Bruxelles con gli studenti dell'Università degli Studi di Torino che hanno seguito un laboratorio che Europe Direct ha promosso il secondo anno, all'inizio è stata quasi un po' una sfida, sulle politiche di coesione. Abbiamo sentito parlare delle politiche dell'Unione Europea, in verità all'università non sempre si riesce ad arrivare a parlare anche delle politiche dell'Unione Europea, ma le politiche ambientali, le politiche dei consumatori o le politiche di coesione, questo strano concetto, abbiamo pensato come Europe Direct di fare un laboratorio, ma un laboratorio non solo di studio, un laboratorio pratico, di monitoraggio civico sui progetti finanziati dalle politiche di coesione. Praticamente l'idea era quella di chiedere agli studenti di seguire un percorso. Magari te lo dicono loro, adesso ci sono qua Delia e Alessandra, magari... Esatto, Delia Costa, Alessandra Curzio, che insieme a Riccardo Tacchetto sono tra i partecipanti di questo progetto, studenti dell'Università di Torino. Vi chiedo un minuto di pazienza, ci fermiamo al momento del traffico e poi ci raccontate quello che avete combinato. Faircam Transport, il vostro partner per trasporti a carico completo o parziale. Faircam.com. Vi presento... L'altra Europa. Eccoci qua ancora con l'altra Europa. Arriviamo insieme appunto a Delia ed Alessandra, studentesse dell'Università di Torino, che insieme a Riccardo Tacchetto, che è qua con noi, hanno partecipato a questo progetto di monitoraggio civico. Allora, Delia, cosa avete fatto? Ciao a tutti. Beh, innanzitutto noi siamo un gruppo di studenti dell'Università di Torino e abbiamo partecipato appunto al laboratorio sull'impatto dei fondi europei nei territori, come spiegava prima Alba Garavet, che è organizzato da Europe Direct Torino. Noi abbiamo organizzato questa attività di monitoraggio civico su uno dei progetti finanziati dai fondi strutturali europei presenti sul portale nazionale di opencoesione.it. Uh-huh. Il progetto che abbiamo scelto di monitorare è quello di Camera, che è il Centro Italiano per la Fotografia, che si trova qui a Torino in via delle Rosine in pieno centro. Adesso lascio la parola ad Alessandra, così vi spiega un po' come ci siamo divisi e come abbiamo organizzato il lavoro. Sì, grazie. Appunto abbiamo scelto dal portale di Open Coesione il progetto di Camera, Centro Italiano per la Fotografia di Torino, e per monitorare questo progetto ci siamo suddivisi in 5 mini equip. C'era chi si occupava dei social media, quindi social media manager che hanno diffuso il nostro lavoro su Facebook e Twitter, gli storyteller che invece si sono occupati di raccontarlo in maniera più creativa attraverso video e racconti, gli analisti che hanno cercato invece i dati nelle delibere regionali su internet e infine i blogger che hanno redatto il lavoro finale, il report che è stato poi riportato sulla piattaforma Moniton, e i project manager che invece si sono occupati di coordinare i nostri gruppi. Quindi insomma un'analisi completa da tanti punti di vista diversi. Siete andati a vedere proprio come questi soldi sono stati utilizzati. Esattamente, ci siamo un po' addentrati nel mondo delle politiche di coesione, abbiamo capito come funzionano questi finanziamenti europei che spesso sono molto lontani dalla nostra realtà. Infatti è stato complicato navigare tra norme, contributi, rendiconti? Inizialmente sì, perché abbiamo solo trovato delle delibere regionali che erano incomplete, non riuscivamo a capire perché questi dati fossero così presenti, non capivamo bene appunto come fossero stati utilizzati i soldi. Poi alla fine abbiamo parlato con il responsabile amministrativo. Sì, abbiamo chiesto un colloquio con il responsabile amministrativo di Camera, che ci ha gentilmente accolti e ci ha aiutati a delineare un quadro più chiaro di come sono stati usati questi fondi per ristrutturare gli spazi. E poi il nostro progetto è culminato con l'arrivo a Bruxelles alla visita del Comitato Europeo delle Regioni. Abbiamo fatto vedere i nostri video, abbiamo ricevuto molti complimenti, siamo estremamente grati. Tra l'altro, se volete vedere i nostri video, noi abbiamo una pagina Facebook, sì, si chiama Monito Camera, li potete vedere tutti, e abbiamo anche una pagina Twitter. Perfetto, grazie, complimenti, ottimo lavoro, progetto che credo continuerà in altre declinazioni, certo, perché è piaciuto. Chiudiamo questa puntata dell'Altra Europa con il privilegio di avere ospite Roberto Viola, direttore generale della DG Connect, della Commissione Europea, proprio perché qui al Salone dell'Auto di Torino c'è tanta tecnologia, c'è tanto futuro ed è un po' il mondo che naviga. Roberto Viola, benvenuta all'Altra Europa, Viola. Grazie. Allora, Digital Day 2017, l'ultimo appuntamento che vi ha visto protagonisti, dove sta andando l'Europa pensando al digitale? L'Europa si avvia in questa rivoluzione di tutto, del nostro modo di vivere, del nostro modo di produrre, di apprendere e soprattutto nel nostro modo di guidare, perché la guida connessa e autonoma è alle porte e questa è una grande rivoluzione che significa meno inquinamento, meno incidenti e meno ore passate nel traffico. Quindi insomma è un futuro già presente? In parte sì, lo vediamo dai modelli di auto che stanno uscendo, che sono già abbastanza, ci sono abbastanza modelli connessi, abbastanza modelli che presentano delle caratteristiche di guida semiautonoma come riconoscimento di corsia, il riconoscimento dei pedoni, quindi ci stiamo già avviando e la rivoluzione è dietro l'angolo ed è la guida totalmente autonoma. Mm-hmm. Progetti in cui l'Europa sta investendo con finanziamenti dedicati, anche perché tutto ciò vuol dire tanti nuovi posti di lavoro? Sì, perché non c'è solo l'aspetto ovviamente che ci sta tutti a cuore della sicurezza e del meno inquinamento, ma il settore del trasporto è più o meno il 5% della forza lavoro dell'Europa e questa digitalizzazione del settore del trasporto porta tante opportunità, soprattutto per i giovani, nell'ambito dell'informatica, nell'ambito della robotica, anche per esempio nelle fabbriche, nella produzione delle auto, dei veicoli e dei sistemi di mobilità. Quindi è un'enorme opportunità per i giovani e ci sono molti più posti di lavoro che giovani che hanno specializzazione nell'informatica e nella robotica. Insomma, questo è un invito anche per le scelte future legate agli studi. Viola, prima di salutarci, ma c'è qualche numero significativo che ci vuole dare? Io ce ne avrei tanti di numeri. Forse i dati più significativi sono che la guida autonoma e connessa può ridurre di circa il 2% le emissioni di CO2 e ridurre significativamente il numero di incidenti stradali, il 90% degli incidenti stradali sono dovuti a errore umano e abbiamo calcolato che spenderemo 2,6 miliardi di ore meno nel traffico. Mi sembrano dati importanti. Credo, assolutamente. Viola, un'ultima domanda, ma per quello che riguarda la sua DG, quando si parla di futuro, di digitale, di nuova industria, l'Europa è unita o è un'Europa con voci diverse? Ma nel DG digitale l'Europa è unita perché il digitale non conosce le frontiere e perché c'è una volontà politica di marciare tutti insieme, anche perché è una necessità. Pensi all'abolizione del costo del roaming che è dietro l'angolo, alla portabilità dei contenuti, alla possibilità di fare acquisti in linea dappertutto in Europa, queste cose stanno avvenendo e quindi il digitale va più veloce della grande politica. Grazie davvero Viola, buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. E ora chiudiamo questa puntata dell'Altra Europa qui dal Salone dell'Auto di Torino. Un grazie ai nostri ospiti, un grazie a Cesare Martinetti, direttore di Origami, un grazie ad Alba Garavet, responsabile dello Europe Direct di Torino, un grazie a Elisa Palazzi, un grazie a tutti gli ospiti che si sono ruotati ai nostri microfoni e soprattutto un grazie ai Banda Cadabra, colonna sonora di questa puntata. Ed eccoli qui nella nostra postazione mobile per finire in musica. A voi! Cadabra, l'appuntamento con l'Altra Europa è a sabato prossimo.